America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, oggi festa del lavoro in America. L'America è chiusa, la borsa è chiusa, ci si gode l'ultimo giorno della stagione estiva. Devo dire, qui a New York, nella costa orientale, ci sono delle giornate bellissime. Gli ultimi giorni sono stati davvero molto molto belli, e poi poi tutto finisce come sempre, tutti a casa, riaprono le scuole, riprendono le attività lavorative a tempo pieno. Barack Obama, come dimostrazione di solidarietà nei confronti dei lavoratori, oggi firmerà un ordine esecutivo che obbliga tutti i vincitori di appalti federali a pagare le giornate di malattia per i loro dipendenti, perché finora non c'era questo obbligo. Ecco, è una misura questa che riguarda ben 300.000 lavoratori, e un modo come un altro per il presidente, appunto, come vi dicevo, per dimostrare solidarietà nei confronti dei lavoratori. Si festeggia questa giornata del lavoro in molti modi, un po' dappertutto nel paese. Ci sono dimostrazioni, ci sono riunioni dei sindacati. E il lavoro ha molti frutti, uno di questi frutti è la filantropia e l'idea del poter restituire, del give back. E dunque oggi vorrei tornare a parlarvi di filantropia. Perché oggi ve ne riparlo? Beh, perché abbiamo avuto qualche giorno fa, non sono riuscito a darvela subito, ma ve la do adesso, una notizia non secondaria, e cioè la beneficenza negli Stati Uniti è aumentata per il quinto anno consecutivo e ha superato per la prima volta il picco che era stato stabilito durante la crisi. Nel 2014, i calcoli ovviamente sono riferiti alla fine dell'anno scorso, gli americani hanno donato complessivamente, siete pronti per la cifra, 358 miliardi di dollari. Ecco, e la cifra calcolata nel rapporto annuale di Giving USA Foundation, che è una fondazione dedicata proprio alle filantropie. Nel 2007 si era raggiunto il livello di 355 miliardi di dollari, dopodiché c'è stata la crisi e c'è stata una caduta che nel 2009 ha portato addirittura al livello di 303 miliardi di dollari. Ma questo per dire che cosa? Che anche durante la recessione, durante i momenti difficili, gli americani continuavano a fare delle donazioni. The role of individuals is even bigger than that. Ecco, chi parla è Patrick Cronay, che è il decano per la ricerca e gli affari accademici della Lilly Family School of Philanthropy dell'Indiana University, che ha effettuato le ricerche e ha redatto questo rapporto. La grande recessione, ha detto, è stata davvero un doppio smacco, nel senso che c'erano più persone che avevano maggior bisogno, c'era un aumento di persone disoccupate, più persone affamate, più persone senza casa, e allo stesso tempo ci sono state meno risorse in arrivo per la redistribuzione attraverso le attività filantropiche a causa della crisi. Vediamo come sono state suddivise queste donazioni. Intanto l'aumento delle donazioni individuali, che l'anno scorso sono state per 258 miliardi di dollari, ha avuto il 54% della crescita rispetto ai 249 miliardi del 2013. Questo include anche donazioni che arrivano dal mondo high tech, per esempio 1,9 miliardi di dollari che l'anno scorso avevano donato Bill e Melinda Gates, oppure una donazione di 550 milioni di dollari di Sean Park, il cofondatore di Napster, che ha donato alla sua fondazione Fidelity, che si occupa di immunologia e scienze della vita. Poi la Silicon Valley Community Foundation ha avuto di nuovo importanti donazioni, devo dire, coloro che fanno enormi quantità di quattrini grazie all'high tech sono poi molto generosi. Jill e Nicholas Goodman, fondatore di GoPro, ha donato 500 milioni di dollari, mentre John Kuhn, fondatore di WhatsApp, ne ha dati 556. Attenzione, perché poi la filantropia è molto locale. Questi soldi, a parte Bill Gates che fa donazioni globali, ma spesso questi soldi vengono donati per attività locali. One thing that Kevin's talked about in the book is that it used to be the case that even if you didn't feel that way. Ecco, non che non ci siano polemiche naturalmente attorno a queste donazioni, ma alcune possono anche essere legittime, ma altre, devo dire, mi danno davvero fastidio. Per esempio, chi avete appena ascoltato è un signore che si chiama Matt Levine, che scrive per Bloomberg, il quale si è permesso di attaccare e criticare John Paulson, che è un importante finanziere americano, perché ha donato, poco fa ha annunciato questa sua donazione, 400 milioni di dollari a Harvard per la scuola di ingegneria, che sarà chiamata come lui. A questo punto la scuola di ingegneria di Harvard si chiamerà Paulson Engineering School. Qual è l'obiezione che solleva il signor Levine? Beh, dice, questo Paulson i soldi poteva investirli meglio. Perché li ha dati a Harvard? Solo per soddisfare il suo ego. Questa non è vera filantropia. Li ha dati a Harvard perché il suo nome potesse essere scolpito nelle pietre della facoltà di ingegneria, ma avrebbe fatto molto meglio se li avesse dati ai bambini che muoiono di fame. Ecco, naturalmente ciascuno è libero di pensare e di credere quello che vuole, però questo signor Levine, che faceva il banchiere, faceva prima l'avvocato, poi il banchiere, poi ha lasciato banking per dedicarsi al giornalismo, beh, come dire, ho l'impressione che abbia un po' un qualche risentimento per non avere a sua volta a disposizione qualche centinaio di milioni di dollari da donare liberamente. E se il signor Paulson decide che vuole fare una donazione perché gli piace la scuola di ingegneria e perché preferisce che, fermo restando che il suo nome sarebbe stato legato a qualunque altra azione che avesse finanziato, perché questo fa un po' parte delle regole del gioco, ecco, voleva invece darlo alla scuola di ingegneria di Harvard perché sull'ingegneria si costruisce l'alta tecnologia americana, insomma, voleva investire sul futuro del paese. E dunque bravo Paulson che ha fatto questa sua donazione, credo che dovremmo semplicemente applaudire visto che ha donato e può scegliere di donare come meglio crede. Ma in che direzione vanno le donazioni americane? Beh, arte, cultura, studi umanistici, circa il 7,4% di aumenti rispetto al 2013, iniziative internazionali invece sono in calo del 3,6%, istruzione, ambiente, salute più 3,5%. Le organizzazioni religiose non sono andate molto bene, soltanto due elargizioni a delle istituzioni religiose hanno superato i 100 milioni di dollari. Le donazioni aziendali, quindi gli imprenditori, i manager che ci ascoltino, le prendano atto, sono cresciute del 12% e sono pari a 17,8 miliardi di dollari. In America si chiama Social Corporate Responsibility, e dunque la responsabilità sociale delle grandi aziende. Anche quello è fare filantropia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, abbiamo parlato di filantropia, abbiamo parlato di altruismo in fondo, e dunque dei Nickelback, If Everyone Cared, se ciascuno di noi pensasse agli altri. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!